Radio 24 Reportage. Flamanville, il nucleare sotto casa, di Simone Spezia. E de là par le tunnel. I tetti di Ardesia, i prati e le mucche al pascolo, le spiagge enormi dove sbarcarono gli alleati, il mare agitato che le bagna, un antico castello, due reattori nucleari. A Flamanville, un pugno di case di abitanti nell'alta Normandia, quest'ultimo elemento di paesaggio non viene ritenuto dissonante. Sono oltre 30 anni che ad una ventina di chilometri dall'abitato di questo borgo sorge una delle centrali che, insieme alle altre, permette alla Francia di coprire l'82% del suo fabbisogno energetico. E non è nemmeno che qua l'abbiano presa con cupa rassegnazione. Patrick Fouchon è il sindaco della città. Ci sono state delle polemiche, dei dibattiti quando è stato proposto di mettere l'impianto qui a Flamanville. Ma è giusto e costruttivo confrontarsi su questo tema come su qualsiasi altro di importanza industriale per una certa area geografica. Gli abitanti erano già stati consultati nel 1965, cioè circa 40 anni fa. In 40 anni l'attività di produzione nucleare ha coinvolto tutta la popolazione. Un nonno, uno zio, un fratello hanno senz'altro lavorato in questa miniera in ogni famiglia. E questa esperienza ci ha permesso di maturare insieme. Non si liquida certo un problema o un progetto di ampliamento con una semplice protesta, ma si analizza nel merito il valore dell'attività sul territorio. Ci si mette tutti intorno a un tavolo per avere delle risposte scientifiche serie, per la salute o per l'ambiente, ma in maniera seria e responsabile da entrambe le parti e impiegando tutti i mezzi disponibili. Pense qu'elle soit scientifique, s'il y a des interrogations sur un problème de santé publique, s'il y a non c'è mai una risposta rapida o dogmatica. Se c'è un'interrogazione pubblica, va trattata sul serio, cercando dati e statistiche con gruppi di scienziati, ricercatori, industriali, politici, perché ognuno, a titolo individuale, si faccia la sua opinione e poi le si confronti in maniera pubblica. Poi siamo in democrazia, si rispettano le opinioni di tutti, ma ci si prendono le proprie responsabilità e si prendono le decisioni di cui si rende conto agli elettori. Oggi è più di 40 anni che viviamo con il nucleare. Certo, le manifestazioni contrarie non sono mancate, come negli anni 80, ma ora si trattano questi argomenti con più attenzione e serietà, nel pieno rispetto del confronto e senza categorizzare in maniera semplicistica. Se c'è un problema o un dubbio, bene, ci si siede al tavolo e se ne discute. On met tout le monde autour de la table. E siamo ad oggi. I due reattori stanno per diventare tre. È infatti proprio Flamanville il luogo nel quale si sta realizzando un impianto nucleare di terza generazione, dello stesso tipo che nelle intenzioni del governo italiano dovrebbe essere costruito nel nostro paese. Qua il progetto è di EDF, ma vi partecipa anche l'italiana Enel con un 12,5%, ed è proprio con gli uomini dell'Enel che andiamo a visitare il cantiere. Di fronte al mare, accanto alle due enormi cupole dei generatori già esistenti, i lavori vanno avanti. L'obiettivo è di concluderli per il 2012. Claude Gatignolle è un deputato, è stato eletto in queste zone ed è presidente del gruppo Energia all'Assemblea Nazionale. Il nucleare è direttamente issu della ricerca. Il nucleare che abbiamo qua deriva direttamente dalla ricerca francese attraverso l'acquisto della licenza da Westinghouse, che è leader per la produzione ad alta pressurizzazione. Ma questa licenza è stata francesizzata, cioè tradotta nella nostra realtà, e l'obbligo di produrre elettricità senza utilizzare materie fossili, perché in Francia non ci sono né carbone, né petrolio, né gas, ha fatto sì che la domanda si sviluppasse molto, soprattutto dopo l'ultimo shock petrolifero, e ha contribuito ad uno sviluppo strategico della nostra politica energetica, cioè il produrre elettricità senza essere dipendenti dall'estero. Questo è il primo punto fondamentale. L'altro sono gli investimenti che il Paese ha saputo programmare in materia. Spesso, quando mi chiedono di quantificarne la portata, faccio un esempio. Nei soli 7 anni di Giscard d'Estaing ne sono stati realizzati ben 32 di impianti. È uno sforzo enorme, eccezionale. Era una visione dell'avvenire per proteggersi dalla dipendenza estera, dal petrolio. La decisione nel 78 di costruire due reattori fu mantenuta nonostante le contestazioni sociali. Il sindaco di Flamanville, vecchio operaio delle miniere, ha fatto un referendum nel comune. Il 68% ha detto sì. Si è costruita una consapevolezza sociale della sicurezza e della necessità del reattore e oggi siamo qui per il terzo impianto. Questi impianti hanno creato lavori qualificati e ben pagati e questo ha fatto bene a tutto il territorio, anche in termini di vita sociale, culturale e sportiva. Io sono stato in gioventù un giocatore di rugby a Tolosa e vi posso dire che oggi qui c'è una squadra di tutto rispetto. Chi l'avrebbe mai detto? È un esempio di osmosi tra la vita sociale e quella d'impresa. E quando un mio omologo italiano, deputato o senatore, mi chiede «Ma come fate per convincere la gente ad accettare un impianto così?» Io rispondo e spiego che bisogna farla partecipe della ricchezza che questo impianto porta. Et bien nous avons des systèmes à nous qui répartissent sur un territoire la richesse. Dica quel che vuole Gatignol, ma le cose non sono così semplici. Come si diceva, in questo paese la quasi totalità dell'energia arriva dall'atomo. Eppure, secondo un sondaggio di Eurobarometro, appena il 53% dei francesi è favorevole al nucleare. Dilaniati anche loro, come noi, tra dubbi, paure e speranze. Tutto splendidamente espresso in questo spot. Solo alla fine vi diremo chi l'ha commissionato, perché è sorprendente. Sono contrario all'energia nucleare perché mi preoccupo per i miei figli. Ma forse allora dovrei essere a favore perché anche loro avranno bisogno di energia. E di petrolio tra 50 anni non ce ne sarà più. Sì, ci sono le energie rinnovabili, ma basteranno? Del resto con quelle niente scorie, mica come il nucleare. Però la quantità di scorie radioattive non è così grande. Un ditale all'anno a testa. Ma moltiplicato per tutti noi fa un gran bel numero. Ci sono soluzioni, anche se stoccare le scorie... Ma almeno lì sappiamo dove sono, mentre con la CO2 prodotta dai combustibili fossili vedrai che effetto serra. E d'altra parte c'è un rischio con le centrali, anche se sulla sicurezza non ci sono dubbi. Beh, l'energia nucleare è fonte di problemi, ma allo stesso tempo è fonte di soluzioni. E voi? Siete a favore o contro l'energia nucleare? O per caso non usate mai l'elettricità? Questo minuto, che è anche televisivo, è stato fatto realizzare da un consorzio belga favorevole al nucleare, che ha deciso però di esplicitare tutte le perplessità. Nascondersi dietro a un dito del resto non serve a niente. Chernobyl, poi il referendum, gli italiani sono ancora diffidenti verso questo modo di produrre energia. Secondo un'indagine di GPF, alla costruzione di centrali sul territorio è favorevole il 40% degli italiani, ma la percentuale scende al 17% se si tratta di farla a due passi da casa. Di più, il 52% dichiara che farebbe di tutto per impedirlo. Da Enel rassicurano, i rischi sono minimi. Francesco De Falco, a capo di Sviluppo Nucleare Italia, ci spiega che la sicurezza dell'impianto si basa su tre principi. Sono quelli del contenimento, della refrigerazione e del controllo. Cosa si intende? Il controllo innanzitutto della reazione nucleare all'interno del reattore, la refrigerazione degli elementi di combustibile per far sì che rimangano sempre in condizioni termodinamiche tali da non rilasciare i prodotti di fissione, e comunque una barriera ultima, finale, che anche nelle condizioni peggiori, quando fossero falliti gli altri due, mi garantisce che i prodotti di fissione che si dovessero liberare, anche se altamente improbabile, rimangano comunque all'interno di questo confinamento strutturale che viene realizzato nell'intorno del reattore. Minimizzando di fatto i rischi. Minimizzando i rischi fino al punto che si prende in considerazione persino in maniera deterministica, perché da un punto di vista probabilistico diciamo non ce ne sarebbe l'esigenza, si prende in considerazione l'ipotesi che il nocciolo si fonda e sfondi anche la parte del contenitore in acciaio che lo contiene, e il sistema è fatto in maniera tale che questa massa fusa venga canalizzata in un apposito deposito nella quale avrà il tempo di refrigerarsi, diventando un blocco non più nocivo per le persone e per le cose. La società guidata da De Falco, Sviluppo Nucleare Italia, è una joint venture di Enel ed EDF, ed è tramite questa società mista che si sta progettando il primo nucleare italiano. Il governo vuole arrivare a coprire il 25% del fabbisogno energetico con l'atomo, Enel ed EDF a coprire la metà di questo 25%, realizzando 4 impianti su 3 siti o forse addirittura su 2. Con che tempi e con che costi? Lo spiega Livio Vido, direttore ingegneria e innovazione dell'Enel. È chiaro che il programma è un programma molto importante che può coinvolgere molte aziende italiane. Il costo, diciamo, di riferimento di un'unità di questo tipo è fra i 4 e i 5 miliardi di euro. ovviamente in funzione del sito in cui si deve posizionare e delle altre installazioni necessarie per completare l'impianto nel sito specifico. Stiamo parlando di 4 impianti da fare in un arco di tempo che può cominciare dal 2012 e finire con la prima unità in produzione circa nel 2020, e le altre 3 unità noi le stiamo pensando con un passo di un anno e mezzo di distanza dopo la prima. Il vero banco di prova sarà tra poco meno di un anno. La data prevista per l'indicazione del primo sito è il 10 ottobre del 2010. E allora, presumibilmente, che si vedranno i primi intoppi.